GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Danni per milioni di euro a Trieste, dove ieri pomeriggio il lungomare è stato devastato dalla violenza delle onde. Un margine piccolissimo, ma a Lignano la piena del Tagliamento è passata senza fare particolari danni. Acqua torbida dai rubinetti del Cividalese, ancora presto però per ritirare l'ordinanza che sconsiglia l'uso alimentare. Frana di Crauzzetto, smottamento in corso di monitoraggio per eventuali opere di messa in sicurezza. 4 novembre al Sacrario di Re di Puglia, il presidente della Camera Fontana e il ministro Casellati. Edizione numero 38 per il Festival del Cinema Ibero-Latinoamericano di Trieste, oltre 100 pellicole in 9 giorni. 12:31, buongiorno da Lara Zani e Rita Micoli. Il giorno dopo la massima allerta meteo sul territorio regionale è partita la ricognizione dei danni. Ingenti quelli registrati a Trieste, dove peraltro l'allerta era arancione, con il lungomare di Barcola spazzato dalle onde della mareggiata di ieri pomeriggio. La pineta di Barcola, o quello che ne resta, il giorno dopo la grande e spaventosa libecciata sul lungomare triestino, rimangono i segni della devastazione dovuta alla forza del mare. Il porfido della pavimentazione di velto, le panchine di pietra fatte rotolare e rimaste inermi a metri di distanza dalla loro collocazione. Gli imponenti massi frangiflutto sono in mare. Un bar è distrutto, vetrine sfondate e il terrazzo esterno di velto. Colpa della forza del mare Adriatico, ingrossato anche da milioni di metri cubi d'acqua dolce scaricata dal fiume Isonzo nel golfo di Trieste, dove si scorgevano grandi tronchi di alberi sradicati. Chi oggi passeggia sul lungomare guarda con stupore e spavento quanto successo. Mai vista una cosa del genere, dicono. Gli operai del comune di Trieste sono a lavoro dalle prime ore del mattino per mettere in sicurezza, per quanto possibile, la pavimentazione. In una pineta ferita abbiamo incontrato l'assessore Babuder, che fa la conta dei danni. Si parla di milioni di euro anche per ripristinare il verde pubblico e i parchi gioco completamente distrutti. Sul lungomare triestino, uno dei topolini, gli stabilimenti balneari tanto cari ai triestini, mostra i segni della forza delle onde. Anche a Muggia, al confine orientale della città, il lungomare è stato colpito con violenza, in particolare la strada per Lazzaretto, che rimarrà chiusa ancora per giorni, almeno fino alle verifiche della Protezione Civile in programma la prossima settimana. Trieste, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Stretta tra il mare e il Tagliamento in piena, Lignano si trova oggi a fare i conti con un arenile mangiato dagli effetti degli ultimi violenti fenomeni meteorologici. A Lignano Sabbia d'Oro la piena del Tagliamento è passata senza fare sostanzialmente danni e non è stato semplice, perché il livello del fiume è arrivato a pochi centimetri dal limite dell'argine, che protegge una zona dove ci sono diverse attività economiche. Dunque si è rischiato un danno piuttosto elevato all'intera comunità. Si può dire, lo chiediamo a Marco Donà, assessore della Protezione Civile, per la Protezione Civile qui del comune di Lignano, si può dire che è andata bene? Sì, io cerco sempre di essere anche positivo durante le emergenze. È andato tutto bene, il monitoraggio è stato fatto, la piena fortunatamente è stata contenuta e quindi come località, insomma, tracciamo un profilo assolutamente positivo. Cosa diversa è chiaramente la questione dell'erosione della parte, insomma, della spiaggia, che ha avuto delle conseguenze che però, insomma, cercheremo in qualche maniera insieme alla regione di sistemare. Manuel Rodeano è il presidente di Lignano Sabbia d'Oro Gestioni, l'ISAGEST, conosce molto bene ovviamente tutto il litorale lignanese. Come sta andando, premesso che ovviamente domani c'è ancora alta marea e ancora vento da sud, come è andata finora? Praticamente quella di ieri è stato il terzo momento meteorologico che ha interessato il litorale di Lignano Sabbia d'Oro in maniera importante, il primo già la settimana scorsa. L'erosione della costa ormai, insomma, è un dato oggettivo che di anno in anno ci crea non poche preoccupazioni, e a Sabbia d'Oro abbiamo messo in atto delle protezioni che finora hanno retto abbastanza, per cui il danno è stato più contenuto. Pineta e Riviera purtroppo non hanno avuto la stessa fortuna, perché le stesse protezioni sono state divelte la settimana scorsa. Lignano, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. E si sta risolvendo, almeno a Cividale, il problema dell'acqua torbida dai rubinetti. Non sono ancora stati individuati i danni all'acquedotto, ed è ancora presto per ritirare l'ordinanza che sconsiglia di usare l'acqua per scopi alimentari. Hanno lavorato e stanno ancora lavorando sin da ieri i tecnici dell'acquedotto Poiana per risolvere il problema dell'intorbidimento dell'acqua che ha coinvolto circa 20.000 persone tra Cividale del Friuli, Moimacco, Premariacco e Butrio. Ma a causa del livello del Natisone ancora alto è difficile capire e individuare il danno alla condotta. Bisognerà aspettare che rientri la piena del fiume per poter effettuare un sopralluogo e individuarne il danno. Intanto, un primo passo per risolvere la torbidità dell'acqua dovuta all'eccezionale ondata di maltempo è stato fatto. Svuotato e ripulito il serbatoio di Montebovi e pulite le condutture. Alessandro Patriarca, direttore generale Acquedotto Poiana. Agli utenti io posso dire che devono avere un attimo di pazienza ancora. Sicuramente in giornata la situazione tornerà alla normalità, ma dovremo attendere i referti delle analisi dell'acqua per poter chiudere l'emergenza. Se già gli effetti del lavoro fatto si possono vedere a Cividale, ci vorrà più tempo per le utenze di Moimacco, Premariacco e Butrio. Cividale del Friuli, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. E ci spostiamo ora nella destra Tagliamento, dove è ancora in corso il monitoraggio del grande fronte franoso di Clauzzetto. Sul posto geologi e tecnici EDR per monitorare lo smottamento e decidere eventuali operazioni per la messa in sicurezza. Sentiamo il geologo Andrea Mocchiutti. Questa che sembrava appunto una piccola frana, una colata che ha fermato la viabilità, si è dimostrata essere invece soltanto il piccolo angolo di una frana veramente molto grande. È una frana che è lunga circa 300 metri, con un fronte di 120-150 e con una frattura in testa di 20 metri di altezza che si è formata nel giro di 24 ore. Ha tra l'altro tranciato la linea elettrica, ci sono due tralicci che sono appunto caduti. La frana si sta muovendo, ci sono moltissime fratture, tra l'altro cariche d'acqua, sorgenti da tutte le parti. Diciamo che abbiamo veramente tutti gli ingredienti per essere di fronte a una frana da tenere veramente sott'occhio. Questa notte c'è stata la sorveglianza tutta la notte della frana. Adesso stiamo rilevando la frana con un drone che è un sistema LIDAR, laser scanner, quindi avremo una precisione ottimale della frana, e sulla base di quello vedremo appunto di prendere delle decisioni, anche sulla base dell'evoluzione proprio, perché stiamo vedendo che il fronte della frana adesso si sta muovendo più rapidamente di ieri sera. Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. E l'ultima ondata di maltempo non ha provocato gravi danni alle colture in regione già pesantemente colpite in altre occasioni, ma la cosiddetta tropicalizzazione del clima induce a pensare a soluzioni di gestione dell'acqua. Ne abbiamo parlato con il direttore di Coldiretti Friuli Venezia Giulia, Cesare Magalini. Dalle osservazioni che abbiamo dal territorio del nostro ufficio, diciamo sì, nelle aree amari, collinare per le montagne abbiamo qualche svoltamento, ma direi che grandi danni non ce ne sono, ecco, non ce ne sono, insomma. Il territorio ha tenuto, anche perché diciamo la maggior parte delle colture sono già state raccolte, abbiamo solo fuori diciamo la soia, ecco. Abbiamo già dato nel 2021 la gelata, nel 22 la siccità, quest'anno anche i fortunali della grandine con gravi danni anche alle strutture, purtroppo. Questo fenomeno di tropicalizzazione del clima di cui si parla, che rischi comporta e soprattutto per quali colture? È vero, siamo di fronte ormai a dei mutamenti climatici che tocchiamo tutti i giorni. Ecco, si tratta un attimo di gestire diciamo anche la risorsa acqua, perché magari abbiamo dei periodi in cui c'è una siccità robusta, imperante, che dura qualche mese, poi intervallati da periodi di piogge piovose, insomma con 70, 80, 100 mm. Abbiamo già progetti in atto di rinvasare l'acqua quando è in eccesso e gestirla nei momenti in cui sarà carente, ecco. Però stiamo già progettando e guardando un attimo avanti nel futuro. A Trieste questa mattina il Movimento 5 Stelle ha fatto il punto sul contestato progetto di Ovovia, che dal Porto Vecchio, dopo un tratto in piano, dovrebbe salire ad Opicina, di intervenire dinanzi al municipio, fra gli altri l'europarlamentare Sabrina Pignedoli e il deputato triestino Patuanelli. È stata presentata al Parlamento europeo una interrogazione sulla compatibilità del progetto con i regolamenti che sovrintendono la concessione di fondi PNRR, che non devono avere impatto ambientale negativo. Sarà aperta dunque una indagine conoscitiva per verificare la compatibilità fra piano di resilienza e quanto progettato a Trieste. I fondi, secondo i pentastellati, sarebbero così in dubbio e se fossero tagliati, l'opera del costo di 50 milioni peserebbe esclusivamente sul bilancio comunale. Stefano Patuanelli ha annunciato una analoga interrogazione al Parlamento italiano, sottolineando come il ministro Fitto abbia escluso dai fondi PNRR progetti molto meno impattanti dal punto di vista ambientale, tornando a sottolineare l'insostenibilità economica di una nuova via. E adesso diamo uno sguardo al tempo, cielo sereno, poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 15 gradi, a Gorizia 14 gradi, a Udine e Pordenone 13 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 6 gradi e mezzo, a Tolmezzo e Piancavallo 5 gradi, Tarvisio 4 gradi e mezzo, Sappada 1 grado, sul Monte Zoncolano e sul Monte Lussari 0 gradi, a Grado 15 gradi, a Lignano 13 gradi. Le previsioni dell'ARPA: oggi in serata nuvolosità più consistente e piogge diffuse da deboli a moderate a partire da ovest in aumento nella notte successiva, sulla costa vento da sud-ovest in rinforzo nella notte. Domani fino al mattino cielo coperto con piogge diffuse e rovesci che interesseranno in particolare la fascia orientale, la bassa pianura e l'Isontino. Nevicate da deboli a moderate a partire dai 2000 metri di quota, soffieranno venti da sostenuti a forti provenienti da sud sulla costa, poi in calo dal pomeriggio, probabile mareggiata ed acqua alta dal pomeriggio, generale miglioramento con maggiore presenza di sole su pianura e costa. 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale, giornata delle Forze Armate. Le celebrazioni sono iniziate questa mattina in Piazza della Vittoria a Gorizia per poi trasferirsi al Sacrario Militare di Re di Puglia. Presenti il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, in rappresentanza del Presidente della Repubblica, e il Ministro per le Riforme Istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in rappresentanza del Governo. Con loro il Generale di Corpo d'Armata Maurizio Riccò, delegato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Nel ricordo dei caduti e delle vittime delle guerre abbiamo ripudiato la logica della sopraffazione e della violenza, ha detto il ministro Casellati a Re di Puglia. La recrudescenza delle tensioni in Medio Oriente e le potenziali minacce per la pace sullo scacchiere globale stanno mettendo in ulteriore difficoltà l'Occidente, già duramente provato anche sul piano economico e finanziario dal lungo conflitto russo-ucraino, ha sottolineato ancora Casellati. Alla cerimonia ha preso parte anche la patriota della Osoppo, Paola Del Din, 100 anni, che ha dato lettura della motivazione della medaglia d'oro al valor militare conferita al milite ignoto. Questa mattina nelle prefetture delle città capoluogo anche le cerimonie di consegna dei diplomi, delle onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica conferiti dal Presidente della Repubblica in occasione della ricorrenza. Inoltre la Brigata Alpina Giulia anche domani aprirà le porte della caserma di Prampero di Udine, saranno visitabili le sale Cimeli dalle 9 alle 13. In occasione del giorno dell'Unità Nazionale e della giornata delle Forze Armate, i musei e i parchi archeologici statali sono aperti gratuitamente per iniziativa del Ministro della Cultura. In Friuli Venezia Giulia il provvedimento riguarda il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare a Trieste, il Museo Archeologico Nazionale di Aquileia e quello di Cividale del Friuli. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove previsto. Questo pomeriggio una manifestazione antimilitarista contro le fabbriche di guerra si terrà alle 15.30 a Panzano di fronte agli ingressi di Fincantieri, indetta dal Coordinamento Libertario Regionale, che dopo aver sfilato nel rione Monfalconese arriverà in piazzetta Esposti Amianto. Nella cattedrale di Gorizia una messa solenne in rito armeno sarà celebrata dai monaci mechitaristi del convento dell'isola di San Lazzaro degli Armeni a Venezia alle 17. Per l'occasione si terrà una particolare preghiera per la pace nel mondo, per tutti i popoli che oggi soffrono per le conseguenze dei conflitti. Domani invece a Trieste a mezzogiorno la preghiera interconfessionale per la pace, ieri dal vescovo del capoluogo giuliano Monsignor Trevisi l'invito a riunirsi insieme alla comunità ebraica, quella islamica e alle altre confessioni religiose della città in un momento di silenzio e di preghiera. Succederà al Molo Audace, non ci saranno bandiere né discorsi, ma solo raccoglimento di fronte al mare, guardando verso il Medio Oriente in fiamme. È stato sospeso per 15 giorni lo stato di agitazione del personale dipendente della SUGI dell'area esontina in vista del confronto che la direzione generale dell'azienda avrà con l'assessorato regionale competente. La decisione è arrivata dopo il tentativo di conciliazione svoltosi ieri in prefettura a Gorizia fra la stessa azienda sanitaria e le organizzazioni sindacali UIL, FPL, Friuli Venezia Giulia e NURSIND Friuli Venezia Giulia, dal quale è emersa la reciproca disponibilità a esaminare con spirito propositivo le problematiche in atto. La richiesta principale dei sindacati è quella di superare il tetto di spesa per l'assunzione di ulteriore personale da destinare all'area esontina di Asugi. L'economia, dopo le Marche, il Veneto, il Friuli, Venezia Giulia e la regione d'Italia, nella quale le piccolissime aziende sono state più interessate dalla stretta creditizia. A dirlo la CGA di Mestre, nell'ultimo anno gli impieghi bancari vivi alle piccolissime imprese della regione, con meno di 20 addetti, che costituiscono il 98% delle aziende totali presenti in regione, sono diminuiti di oltre il 10%. In termini assoluti, una contrazione pari a 265 milioni. Tra le cause, secondo la CGA, l'aumento dei tassi di interesse imposto dalla BCE, che ha reso molto costoso indebitarsi, la frenata del PIL che ha provocato una flessione della domanda di prestiti, infine le banche che hanno meno liquidità a disposizione. A livello provinciale la flessione più importante ha interessato le piccole imprese della provincia di Udine, seguono quelle di Pordenone e poi di Trieste. La stretta più contenuta infine ha interessato le piccolissime aziende di Gorizia. La Giunta Comunale di Fiume Veneto si opporrà alla VAS, la procedura di valutazione ambientale strategica, relativa all'ampliamento di un allevamento avicolo a carattere industriale in località Torricella in comune di San Vito al Tagliamento, manifestando la preoccupazione di molti fiumani residenti nella zona limitrofa, in particolare in località Rivatte, per l'aumento delle emissioni olfattive e inquinanti riconducibili ai locali di allevamento, all'attività di pulizia dei capannoni e al carico e al trasporto con mezzi pesanti. Secondo il Comune di Fiume Veneto, nella VAS mancherebbe un dettagliato piano di monitoraggio e controllo ambientale. Di qui la decisione di inviare formalmente delle osservazioni e delle opposizioni al Comune di San Vito al Tagliamento. E parliamo ora di un episodio di cronaca denunciato da Confcommercio della Carnia, commercianti e pubblici esercizi del centro di Tolmezzo presi di mira dai ladri. La denuncia arriva da Paolo da Pozzo, che segnala che quattro attività, un bar, una pizzeria e due negozi, hanno preso atto questa mattina dei danni conseguenti ad altrettante effrazioni, tutte sullo stesso lato di via Roma, in rapida successione. Solo uno di questi tentativi è andato a segno, colpi di non professionisti, secondo da Pozzo, che si accontentano di pochi spiccioli ma che comunque contribuiscono ad aumentare la percezione di insicurezza nell'economia locale. Da Confcommercio l'appello al Comune ad installare l'illuminazione pubblica sotto i portici e sistemi di videosorveglianza lungo la strada. E ora gli spettacoli. Dopo la cancellazione della prima a causa di uno sciopero nazionale di categoria, debutta oggi la Manon Lescaut di Giacomo Puccini, inaugurando di fatto la stagione di lirica e balletto del Teatro Verdi di Trieste. Sul podio la direttrice Gianna Fratta, cultrice appassionata del repertorio pucciniano, alle 16. Ed è stato invece rinviato per ragioni legate alla salute di un componente della band il concerto della PFM che si sarebbe dovuto tenere questa sera al Politeama Rossetti di Trieste. Il concerto, che fa parte del tour PFM Canta De André Anniversary, verrà recuperato il 2 gennaio. I biglietti acquistati restano validi. Per le richieste di rimborso c'è tempo fino al 10 novembre. E si apre oggi il 38esimo Festival del Cinema Ibero-Latinoamericano, che porterà a Trieste 102 film provenienti dall'America Latina, con una cerimonia che si svolgerà alle 20 nell'Aula Magna del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Trieste. La serata sarà aperta dal direttore artistico del festival, Rodrigo Diaz, che ci ha fatto alcune anticipazioni sul programma. Al termine, intorno alle 21, la proiezione di La Odissea de los Andes, il documentario che apre la 9 giorni di film, incontri ed eventi. 102 film, 9 giornate che iniziano alle 9 del mattino e finiscono alle 24 presso il cinema Teatro Miela, 5 le sezioni, al di là di quelle tradizionali, concorso, contemporanea, abbiamo questa commemorazione dei 50 anni del golpe di Stato in Cile con la morte del Presidente Allende, sono 20 documentari con qualche lungometraggio all'interno del quale c'è questa retrospettiva dedicata a Álvaro Kovácevic, una figura leggendaria del cinema cileno che arriva proprio domani all'inaugurazione e di cui presentiamo alcune cose uniche, come l'unico documentario che si è tenuto su quella tragedia uruguayana dove sono sopravvissuti 16 persone. Il libro cinematografico l'ha fatto Mario Vargas Llosa, la regia di Kovácevic, tutto all'interno di questi 50 anni della morte del presidente Allende, di cui Álvaro era uno dei pochi amici personali che sono ancora in vita. E quindi abbiamo dovuto rinviare sine die, fino a quando non ci saranno le condizioni, la sezione dedicata a Shalom, cioè il sentiero ebraico in America Latina, di cui ogni anno noi programmiamo 7-8 documentari che presentiamo presso il Museo della Memoria Ebraica di Trieste. Ancora alcuni appuntamenti. Lo storico Dino Barattin presenta la seconda edizione del suo libro Tito Zaniboni e il complotto friulano per uccidere Mussolini alle 20.45 nella sede degli Alpini di Buia. Attrice, drammaturga e regista per la prima volta a Teatro Contatto, Martina Badiluzzi sta riscrivendo la storia al femminile in un percorso autoriale sulle donne senza voce. Nel suo monologo ironico, Penelope è una donna antica dalle istanze modernissime, affidata alla talentuosa attrice palermitana Federica Carruba Toscano, in scena alle 21 al Teatro San Giorgio di Udine. Iniziativa in omaggio della cultura di Gaza attraverso le voci dei suoi autori, poeti e artisti. Alle 18.30 al bar Libreria Knulp di via Madonna del Mare a Trieste. Ora lo sport con il calcio. Udinese in trasferta oggi contro il Milan, si gioca a San Siro alle 20.45. Mi aspetto di vedere il DNA dell'Udinese, ha detto ieri l'allenatore Gabriele Cioffi, che ha fatto il punto sullo stato di salute e di preparazione dei giocatori bianconeri, sottolineando di essere ancora in dubbio sull'accoppiata da inserire in attacco e di non essere interessato ai movimenti del mercato su Samardžić. Triestina in Serie C, gioca la Triestina alle 16.15 in trasferta contro l'Alessandria. Affronteremo una squadra in forma, solida e con un grande entusiasmo, ha detto l'allenatore Tesser. Dobbiamo mettere il giusto atteggiamento contro chiunque senza fare distinzioni di nome o di classifica, consapevoli che è difficile con tutti e che se andiamo un po' sotto il nostro standard diventa ancora più dura, ha concluso l'allenatore della Triestina. Basket, Gesteco Cividale impegnata oggi in casa contro il Rimini, match delicato per la squadra ducale, reduce dalla sconfitta di Forlì e nelle zone basse della classifica di A2. Domani invece sarà il giorno del derby pallacanestro Trieste Apu Udine alle 21. Nella A2 femminile la Del Serudine a Treviso alle 19, alle 18 al Pala Trieste Futurosa contro Roseto. Per il volley maschile di A2 la Tinet Prata affronta al Palacrisa Fulli Laversa alle 20.30. Pallanuoto Serie A1 femminile, nel terzo turno della fase a gironi dell'Eurocup femminile, la Pallanuoto Trieste sarà impegnata sul campo dello Spandau 04. Si gioca nella piscina Schönenberg di Berlino con inizio alle 19. E tornano domani le rubriche del TGR. Cominciamo da Est-Ovest, in onda sul terzo canale televisivo, mentre sempre domani alle 6.05 andrà in onda su Radio 1 la trasmissione radiofonica. Sentiamo però un'anticipazione di quella televisiva. In Montenegro, paese della NATO che ambisce all'Unione Europea, si è insediato un governo formato anche da partiti filorussi. La libertà di stampa, Mosca e Kiev, i giornalisti russi costretti all'esilio, gli ucraini che fanno i conti con la censura di guerra. La collaborazione tra università albanesi e italiane per lo sviluppo delle scienze agrarie nel paese delle Aquile. La Lettonia, paese tra i più verdi d'Europa, basa una parte importante della propria economia sullo sfruttamento delle betulle. Restor Point, film del regista ceco Robert Klotz, una distopia fantascientifica sulla privatizzazione della sanità pubblica. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11.05 su Rai 3. E domani su queste frequenze torna anche Vita nei campi, rubrica su agricoltura e alimentare. Vita nei campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura affronta il tema dell'orto e i cambiamenti climatici. A seguire, per la rubrica dei corsivi di Licio Damiani, quello in cui si parla della caduta autunnale delle foglie. Per i legumi da granella, tutti i consigli per una corretta coltivazione dei fagioli. E ancora, l'estrazione dei tannini nella fermentazione del pigiato per la rubrica del vino. Per i grandi alberi, l'insieme monumentale del bosco bandito di Gracco. Dolcetti a base di castagne nello spazio invece che dedichiamo alla gastronomia. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni del tempo, il proverbio friulano della settimana. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E sarà presentato oggi a Basaglia Penta il nuovo Lunari di Pretoni, curato da Lida Pevere e Cristian Liberale, pensando allo spessore intellettuale e spirituale di Prebellina, maestro, scrittore e traduttore della Bibbia in lingua friulana. Ad arricchire il Lunario, le immagini create per i testi e i canti della tradizione religiosa friulana da diversi artisti. Alle 16 in chiesa le offerte sosterranno l'opera benefica iniziata da Pretoni assieme al gruppo Amici di Udine. Ed era l'ultima notizia di questa edizione del giornale radio regionale, in regia Roberto Cavallari e Mauro Cumin. In redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Dalla Razzani e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.